a spiegare, vabbè, forse uno deve dire una cosa, ci può stare un passaggio corto. Ma per favore, scusate il fratario, ma cioè, mi fai parlare una terapia proprio, minchia, sono comandato tutte e due, cazzo, per carità di Dio, vai a 10, vai. Quasi. Mi è sembrato Giulio poco fa la risata. Mi è sembrato anche lui. Mato giù. Dai un vento, Giulio. C'è fa 3 secondi, eh? In 3 secondi ha pigliato il mondo del pareggio. Non ho capito perché hanno lasciato la squadra che doveva lasciare. Cosa è cambiato in 4 minuti? Ho bucato i 2 giocatori giani nel bocco dei guasci. Nei gol dell'Inter. Facciamo vedere il gol dell'Inter. Luccato, non mi parla. Ma che è ego? Ma c'è dei bruttini. Ma c'è Vicky, sta facendo tutti i gol che ha fatto Luccato, quindi non ha giocato. Claro, ci manca Luccato come un rubesico. Cazzo, come vuoi amare? Cazzo, manca Luccato. Poi il rubesico con l'uva. E non è un problema. Ho trovato per i troppi problemi di Vaikla, a futtidini, dai, tanto il pallone, tanto, allora, chi su di quello, sì, vabbè, uno magari è un tifoso, vabbè, ci sta, però ricordate una cosa, che idea è che se li buoni niente in busciacca, non te li buoni tu. Ci conferma, ci conferma, è così, no, mi dà fastidio, capito, perché si può giocare bene come stanno giocando, però non puoi prendere gol così. Che cosa? No, vabbè. Chi c'è qua nel canale 10, oltre a me e Luca? Avanti. Tutti spariti. Sì, qua sono io. Io vado in faccia a me, ma non mi interessa che c'è, mi sposto, non è che sto lì a preoccuparmi, no? Non mi interessa a me che c'è così di fatto, di radio, di guardare su internet, non me la fotti nuda. Si fa questo a ridere a scherzare e a farlo andare in gioco, se no riso 40 i canali. Lasciala andare. Per il bene, non c'è andato nessun luogo, non c'è andato nessuna parte. In banda da 20 watt, cra. Io ho visto il segnale aumenta un po', detto non si è andato da nessuna parte. In campagna ero. In campagna eri, e anche noi, nella giornata, mangiato di lusso. Però poi, come inizia a dormire, te ne ridurrà perché c'è freddo. Sì, comunque, infatti mi stavo anche addormentando nel divano. Eravamo in cucina e abbiamo preso un po' di meluzze, mi ha dato il padre, qualche melograno, qualche mandarino, clementino, ne ha, c'ha questi clementini qua, sono buoni, non le vende perché ne sono pochi, giusto per noi, là, per loro, un po' per noi, ma sono una bontà unica, sono qua, sono gustosi, sono caramelle, ma buoni veramente. Le abbiamo presi l'altro giorno, sì, abbiamo tutti il bando, lo conosco, sono buoni anche quelli. Sono buoni, sono buoni. No, io, figurati, la campagna che decidi a far prendersi il caffè a cacciata, batte il bando. Non so ancora rientrarmi, mi nego, lo dare fuori, non faccio una cosa, mi appigiamo. No, vabbè, io mi sono lavato poco fa, dopo pranzo, là. O prima di pranzo, adesso non mi ricordo, forse prima di pranzo, non mi ricordo, vabbè, e poi ho detto vabbè dai, non ci riposiamo neanche, ci andiamo in campagna, e infatti poi verso le 7:30 ceno e andiamo a pigliarmi un drum, e così me ne vado a casa, che ho appuntamento alle 8:30 che mi devo portare una televisione. Guardate che prima le 10 è 10 a casa, no, no, no, eravamo in campagna, amici, diciamo come quasi di domenica, sto provando a cuota, io avevo mangiato dolci, mamma mia, dolci, dosa, per carità, basta, male tutta la settimana, già sto a dieta. Qua c'è scritto nel rosmetro, 1.8 megahertz, e poi 200 MHz. Sì, fa l'HF e l'VHF. Ah, VHF, ho capito. Sì, da 1.8 fino a 200. Tutte le HF, 0.30 più con le VHF. Cioè, no, sarebbe stato da 1.8 a 5.25 e ti farebbe anche le VHF, poi ci fa solo un po'. Ah, va bene, buono. Sì, ma poi si guarda tu, la sua bella si è agganciato. Se no, poi si guarda tu, ma... E io, vabbè, io sono diretto, antenna diretta, stazionale, non ne ho, intanto controllo, ma niente di, particolare, va bene così, così arriva. Nuda, nuda, che ha finito di spendere, boh, ma ci preso pure dopo, mi sa, pure dopo, troia, per carità, faccio questo palo, boh. Se lasciarlo lì e portarmelo a casa uno di questi giorni, lo metto nel cabuzzino, mi servirà a qualcosa, servirà. Stavo pensando, siccome è un bel palo, tu ce l'hai preso in mano, sì, va bene per la mantova. No, non per la mantova, no, per bruciare, ma a parte il fatto che è fine, il piantone può essere buono, come tu puoi sostegno, ma è fine per entrare, cazzo, un pollice e mezzo mi... il connettore della mantova, non mettete più piccoli, deve entrare giusto giusto lì e poi va stretto con i suoi due bulloni, perché sennò ballano, può spezzare lì se non è ancora fatto bene. Le giunte mantova montate con il tubo fine che entra lì e gli attinge la fascetta, non funziona così, no, mi fa forte al vento lì se non è, se il collettore non è giusto al tubo, capito, può spezzare lì. Ah, vabbè. No, ma ho notato che questi qua, i pali, in confronto a quelli di Bricoman, questi sono molto più massicci, sono più pesanti, l'altro delle mani più leggero, lega più leggera, anche se è zingato, poi zingato, oddio, bah, una leccatura di zingato avrà, cioè, questo qua sembra abbastanza massiccio come palo, e vabbè, a qualcosa servirà, già non mi domanda nulla. Ora ci puoi montare una VLU leggera, anche lunga, grande, ma i 600, ho capito, oppure ci puoi montare un'antenna leggera, o una Sirio, una, ma non la manta, la manta è troppo pesata, è troppo tubo, pericoloso, non va bene. Dai, aspetta un attimo, mi avvicino un attimo, si è finito, che ci sto buttando un po' di magliette, io non uso più camicie e quant'altro, e se sto facendo uno spazio nell'armadio, aspetta un attimo, dai, rimango qua in ascolto. Io sono un po' servizio in ascolto, grazie.